Valentina, oggi il debutto importante e poi ancora delle date non fissate, però ci puoi dare dei riferimenti web per seguire lo spettacolo. Allora, noi pubblichiamo tutto in modo immediato sulla nostra pagina Facebook, che è appunto Forza Pass Cinema Teatro. Abbiamo anche un sito internet, però è proprio sulla pagina Facebook che noi pubblichiamo le prossime date, i prossimi eventi, i prossimi incontri. Allora facciamo che ci risentiamo a ridosso di una prossima data. Assolutamente, assolutamente. Siamo pronti, siamo pronti. Un abbraccio a tutti voi e a presto. Grazie a Radio Onda Rossa, grazie a Federico. Ciao.